Prima no, non abitavo qua, no? Allora perciò non potrei neanche saperlo, no? Perché abitavo a Santa Maria, perciò ecco, non sta zona qua, sinceramente, proprio che le 33 anni che sono qua, però che la conosco, conosco sta zona qua. Basta. Sì, no, no, no, non sono cresciuta qua, no? E questo volevo dire. E sinceramente, guarda, ho sempre lavorato, sai? E perciò quando lavoravo io venivo di corsa. Nonna, La mezzona, il mio prato qui è hai la zona qua. Quando, sì, lo so, da quando sono venuta l'ha messa a posto così, e lei è ancora così. Le piante sono più alte perché le vecchie, ma non mi sembrano che l'ha cambiata tanto. Le, che l'asilo, che la scuola, dai, le è comoda come zona. Sa quando si lavora e non ti riesci mica a dire che tanta tenta a girarla, no? Da vedere la zona, no? E che è una passeggiata bella che fa lungo quei pini là e va in fuori qua e va a finire al bosco della città, però a me non l'ho neanche mai fatta. No, non è così, eh. La dire, la vera, insomma, è così, se te lavori tua settimana, sabato e domenica te vai coi figli, non te vai da Basna, no? O di sotto, no, no?